A tempo di sport di Giovanni Capuano. E buon pomeriggio in una giornata interessantissima per il nostro campionato, la giornata del ritorno di Antonio Conte in panchina, 4 mesi dopo la squalifica, la giornata di Inter-Napoli che dirà qual è la vera avversaria della Juventus, la giornata in cui si dovrà capire se il Milan può dare continuità alla striscia di risultati positivi. Ebbene, in questa giornata si comincia però questa sera con Roma-Fiorentina, 800-24-00-24 per le vostre telefonate in diretta, 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure su Facebook a tempo di sport trattino radio 24 o su Twitter @CapuanoGio. Si comincia da Roma-Fiorentina e allora io saluto Carletto Mazzone, buon pomeriggio. Grazie, grazie altrettanto a voi. Questa sera Roma-Fiorentina la vede o no? Io credo che al di là di Inter-Napoli sia forse una delle partite più interessanti di questa giornata. Sì, io poi quando ci sono le mie vecchie squadre do la preferenza a loro, per vari motivi, insomma, chiaramente, no? Quindi questa è una partita da non perdere, anche perché dando un'occhiata alla classifica ha anche il significato di provare a chiarire, siamo oramai quasi a metà stagione, chi davvero può avere la forza di restare attaccata alle prime posizioni, alla zona Champions? Lei in quale delle due squadre crede di più? Ma io mi auguro che siano tutte e due competitive per questo obiettivo. Poi anche perché penso che tra le due la differenza è minima. Dipenderà un pochettino dai loro campioni, quelli che daranno una continuità maggiore alle loro condizioni fisiche e di rendimento. Oggi è anche la sfida fra Montella e Zeman. Esatto, sono due tecnici che stimo moltissimo e che sia l'uno che l'altro hanno come concetti di gioco il dominio del gioco stesso, il possesso palla, la profondità, innanzitutto il gioco offensivo, che loro sottolineo con molta attenzione. Secondo lei la Roma deve avere un rimpianto, almeno un piccolo rimpianto, per non aver creduto in Montella? Beh, era molto giovane, gli era stato, penso, gli era, per, se non erro, gli era stata la possibilità di non so quante partite lui ha diretto adesso. Sì, poi è stato scelto Luis Enrique l'estate dopo, perché sono arrivati gli americani, c'era un progetto diverso. Purtroppo a Roma proporre ragazzi giovani come in quel momento era Montella forse era un po' azzardato, diciamo, no? Anche per la società stessa. Però ad esempio l'Inter con Stramaccioni ha fatto un ragionamento diverso dopo le prime 9 partite. Però penso che possa all'Inter possa essere stato insegnato anche i precedenti di altre squadre, perché ultimamente l'allenatore giovane gli si dà, diciamo, spazio, cosa che magari 10 anni fa non si verificava. Adesso le società, diciamo, tra virgolette, hanno coraggio nella scelta di allenatori molto giovani. E però poi bisogna avere anche il coraggio e la coerenza di supportarli fino in fondo. Questo quando si fanno queste scelte si fa anche la scelta di sostenerli, questi allenatori, perché è assurdo che poi si parla di esperienza, di tante piccole cose, che non ha dialogo con i giocatori, di qua, di là. È chiaro che l'esperienza in un allenatore, questo voglio sottolinearlo, non è un difetto, è un pregio. Senta, oggi su vari giornali, ma soprattutto sulla Gazzetta dello Sport, ci sono in retroscena di quando quest'estate la Roma pensò di rioffrire la panchina a Montella. Si legge una proposta quasi irricevibile, un ingaggio basso, niente staff, poca possibilità di intervenire sul mercato. Se magari 2 anni fa poteva avere un senso non fidarsi di un allenatore giovane cui si era concessa una piccola possibilità, non ripensarci quest'estate è stato forse un errore? Ma sa, queste sono cose difficili a giudicare, no? Da così tanto lontano. Se fanno delle scelte, d'altronde, ecco Montella adesso ha credibilità e penso che questa sua credibilità verrà portata avanti per tanto tempo. E poi magari qualche giovane gli prenderà il posto fra qualche anno, molti anni, io gli auguro. Non so, questa situazione della scelta dell'allenatore è sempre più complessa e complicata. Io sono sempre partito dal principio che l'esperienza, io mi sono basato su me stesso, che l'esperienza in un allenatore è un pregio, non è un difetto. Adesso Montella lo stiamo sottolineando e lo stiamo anche giudicando altamente positivo, vero? È vero? Sì, sì. O no? Sì, assolutamente. Esatto. Fra 10 anni sarà meglio, penso, o no? Può essere, certamente. No, come? Perché può se non ha perso magari qualità come? Che gli vengono dall'entusiasmo iniziale, certamente sarà meglio, no, perché avrà in più l'esperienza. L'entusiasmo gli può, però per quello che sono le scelte tecniche, l'atteggiamento tattico, io penso che darà sicuramente qualcosa di più di quello che già dà benissimo. Mazzone, io... Scusami, dica. Purtroppo è sempre il risultato che fa il valore dell'allenatore e questo io non l'ho mai condiviso, perché dipende tu, società, che cosa mi dai e che cosa vuoi raggiungere. Sì, ma vale anche per Zeman, ad esempio, che un mese fa era un allenatore sulla porta d'uscita, ha vinto 3 partite di fila e oggi è tornato a comandare nel progetto Roma. Zeman c'ha una storia, una carriera, ragazzi, non scherziamo, no? Ma non manchiamo, non diciamo di rispetto, non manchiamo di concetto. Zeman ha fatto una sua storia, c'ha una storia. Però sono sorprendenti le sue dichiarazioni, è sorprendente, lo ha fatto anche questa settimana, dire ad esempio che uno come De Rossi non è integrato nella Roma. Cosa vuol dire? Ma probabilmente adesso io quando mi si fa queste domande mi rimane difficile giudicare, perché non so precisamente quello che si è verificato. Una cosa è certa, è che tutti i giocatori devono essere al servizio dell'allenatore e ci deve essere un grande rispetto. Se questo non si verifica, è chiaro che sono in difetto i giocatori. Ma è possibile dire di uno come De Rossi, che è un pezzo della storia della Roma recente, che non è integrato, con la squadra, con l'ambiente, col tecnico, forse col tecnico, però le parole poi hanno un peso, o no? Io mi auguro che adesso si chiarisca tra di loro, tutto quello che è e che si prenda quello che è. Il giocatore deve essere giocatore e deve dare sempre il massimo, e l'allenatore deve avere rispetto per i suoi giocatori, ecco. Certo. Perciò penso che io più di questo non posso dire, perché non conoscendo realmente quello che si è verificato. Chiaro. Una cosa è certa, nello spogliatoio l'allenatore è il punto di riferimento, gli altri devono essere tutti al servizio dell'allenatore se si vuol vincere. Se poi si vuol far chiacchiere e si vuol fare i suoi interessi, allora cambia. Non c'è dubbio. Io personalmente prendevo in mano la situazione e mi assumevo tutte le responsabilità e decidevo io tutto. E faccio un'ultima domanda, è il fine settimana del ritorno di Conte, anche lei gli fa un in bocca al lupo, anche lei ritiene che per la Juventus cambia molto e in meglio con questo ritorno? Beh, penso senz'altro, anche perché tutto quello che è stato fatto è suo, L'altro, il suo collega che lo ha rappresentato, non ha fatto altro che proporre quello che lui indicava. Diciamolo, questo qui. Secondo lei tornerà più caricato dalla squalifica? Bisogna fare attenzione per il troppo entusiasmo adesso, perché sicuramente avrà anche un pizzico di rabbia per quello che è stato detto e fatto, che mi è dispiaciuto tantissimo, perché io ho avuto il piacere e l'onore di averlo come giocatore in un momento molto difficile della sua carriera, perché veniva da grande infortunio a Lecce. Col mio entusiasmo e la sua disponibilità si è recuperato e poi ha fatto la sua carriera. Io l'ho seguito e lo sto seguendo, e io potrei essere, diciamo, un grande testimonio dell'onestà e della serietà di questo ragazzo. E insomma, e con oggi tra l'altro si chiude questa parentesi augurandosi che non ci siano altre code. Grazie a Carletto Mazzone. Tante saluto, grazie a voi, ragazzi, e buon lavoro. E questo era Carlo Tommazzone con le idee, credo, abbastanza chiare su questo Roma-Fiorentina che apre la 16ª giornata. In realtà prima c'è la gara tra Atalanta e Parma, però è certo che Roma-Fiorentina è partita che deve dare delle risposte anche per l'alta classifica. E allora, è stata la partita preceduta dalla settimana delle nuove polemiche su Daniele De Rossi per la frase di Zeman ai microfoni del TG1. De Rossi non si è integrato in questa squadra. E vediamo ieri come ha risposto, anche un po' piccato quando gli sono stati chiesti chiarimenti su questa che è una frase che ha destabilizzato l'ambiente romano in questa settimana. Zeman. No, io penso che non c'è da scherzare su questo argomento, visto che voi più che informare disinformate, e mi dispiace quello. Perché dice questo? Vuole fare qualche... Perché ho sentito servizio anche suo, sì. Qual è la cosa che pensa sia stata una disinformazione sulle sue dichiarazioni di due giorni fa? Tutto. Lo dico, quando non si dicono le parole che dico io nelle interviste, si aggiungono, si correggono, è errato, visto che non l'avete fatto voi direttamente. Cosa ha trovato di errato? No, per capire intanto se vuole fare tutto, dei chiarimenti. Io dico tutto, per me è stato un pezzo allucinante. Un pezzo allucinante, questo il commento di Zeman sulla sua intervista al TG1 in settimana su Daniele De Rossi. È però anche la serata del ritorno di Montella all'Olimpico, Montella che è stato un pezzo importante della storia recente della Roma, Montella che è stato anche l'allenatore della Roma, seppure soltanto per qualche domenica, e allora non può non provare una certa emozione. Sentiamo Montella. Sinceramente non lo so, ad oggi sicuramente no, probabilmente domani sì, ci sono già arrivato all'Olimpico da allenatore avversario ed è un attimino diverso entrare in quello stadio per me perché ci ho trascorso tantissimi anni. Ad oggi devo dire che il momento in cui mi sono emozionato di più è quando abbiamo affrontato il Catania, c'è stato uno scorcio, un momento in cui mi sono emozionato proprio perché mi sentivo ancora vicino a quei ragazzi. E questo era Montella. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, per dirci che cosa ne pensate di Roma-Fiorentina, del ritorno di Conte e anche delle parole di Berlusconi che sentiremo dopo. Berlusconi che ha chiuso all'arrivo di Balotelli oggi su tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi il grande intrigo Balotelli, Snyder, Pastore. Snyder, a proposito, non è stato convocato nemmeno questa volta per Inter-Napoli, ma proprio pochi minuti fa è apparsa su Twitter la sua foto a passeggio in centro con la moglie Iolante, quella che ieri ha detto che l'infortunio era tutta una finta, e oggi Stramaccioni se l'è un po' presa. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS. Potete scriverci però anche su Facebook, la pagina è A Tempo di Sport - Radio 24, oppure se volete su Twitter l'account è @CapuanoGio. Oggi però sulla Gazzetta dello Sport un articolo che sta molto preoccupando i tifosi del Napoli e in generale la gente di Napoli e anche la società. Napoli sarà penalità per le scommesse, rischia fino a 2 punti. La vicenda è quella del patteggiamento dell'ex portiere di riserva Gianello, che ha patteggiato la sua pena per Napoli-Sampdoria 1-0 del 16 maggio 2010. Lunedì comincia il nuovo processo sportivo con il club che è sul banco degli imputati per responsabilità oggettiva, e secondo la Gazzetta dello Sport ci sarebbe la certezza di una penalità di 2 punti che potrebbero trasformarsi in 1 punto con il patteggiamento, ma a quel punto il Napoli rinuncerebbe poi al secondo e al terzo grado di giudizio. E allora noi di questa cosa vogliamo parlare con il legale del Napoli, l'avvocato Mattia Grassani, che salutiamo. Buon pomeriggio, avvocato. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio, avvocato. Noi l'abbiamo chiamata perché oggi questa previsione della Gazzetta dello Sport sulla penalità certa per il Napoli per la vicenda del calcio scommesse legata a Gianello sta preoccupando non poco i tifosi del Napoli, in tanti anche ci stanno scrivendo. E allora lei è l'avvocato del Napoli su questa vicenda. Volevamo capire se lo scenario che oggi scrive la Gazzetta è uno scenario che va considerato scontato, inevitabile. Guardi, io tutto il pomeriggio che sono in contatto col presidente De Laurentiis, ovviamente le notizie giornalistiche non sono quelle attendibili e che ci troveremo nel processo di lunedì. Pensiamo che non sia assolutamente possibile una conclusione tipo quella di cui parla la Gazzetta dello Sport oggi. Il Napoli in questa vicenda è parte lesa, non ha alcuna responsabilità e è tutto da dimostrare il coinvolgimento a titolo oggettivo del club, per cui è un'ipotesi giornalistica. Il presidente, che ho sentito oggi, è fortemente determinato a scongiurare questo pericolo e a far valere la totale estraneità della società. Certo, quindi in questo momento viene esclusa l'ipotesi del patteggiamento. Per chi non avesse letto, diciamo, la ricostruzione è che, dando per scontata l'esistenza della responsabilità oggettiva, al Napoli converrebbe patteggiare, prendere un punto, ma a quel punto si precluderebbe la strada di andare fino al TNAS. Questo è quello che viene scritto nella ricostruzione giornalistica. Innanzitutto teniamo presente che ci sono anche gli interessi di due giocatori, il capitano Paolo Cannavaro è una riserva assolutamente di rilievo come Grava, che anche si sono coinvolti, quindi un patteggiamento del club coinvolgerebbe anche questi giocatori, quasi determinandone l'automatica responsabilità, per cui la società intende preservare sia la propria posizione di classifica in termini di punti conquistati sul campo, ma anche la possibilità di continuare ad impiegare il capitano e Grava, per cui il patteggiamento per il momento, e credo anche lunedì, non sarà neanche un'ipotesi che prenderemo in considerazione, e quindi affronteremo il processo in maniera assolutamente aperta, confrontandoci con l'accusa e chiedendo il proscioglimento e del Napoli e dei suoi tesserati. Certo, l'ultima considerazione è questa: le ultime sentenze del TNAS, che in parte stanno rivedendo il cammino di disciplinare e Corte di Giustizia federale, vi invogliano una società come il Napoli a provare ad andare fino in fondo, al di là della convinzione di essere parti lese? Partiamo dal presupposto che se uno non ha commesso nulla e ha 3 gradi di giudizio da poter affrontare, non ha molto senso prendere in considerazione un'ipotesi di patteggiamento che, come diceva lei, precluderebbe in partenza la possibilità di perseguire i 2 gradi successivi, accettando eventualmente un punto di penalità. Per il Napoli un punto di penalità sarebbe comunque un danno enorme, per cui tutti e 3 i gradi, qualora non dovesse andare bene fin dal primo grado avanti alla commissione disciplinare, saranno le sedi e le stanze nelle quali il Napoli tenterà di far valere ad ogni costo e con ogni strumento la propria innocenza, perché tale si ritiene. Certo, comunque l'impressione è che questa vicenda del calcio scommesse stia riscrivendo alla radice la responsabilità oggettiva dei club, lo stia facendo nei fatti prima ancora che arrivi, e probabilmente arriverà nei prossimi mesi, una vera e propria riforma del codice. Questo è uno dei cavalli di battaglia di Aurelio De Laurentiis, da me, ripeto, sentito più volte oggi. È assolutamente odioso come istituto quello della responsabilità oggettiva, seppur una garanzia per certi versi, ma laddove in un contesto come quello che riguarda il Napoli ci sia un giocatore a fine contratto, a fine carriera, che eventualmente, tutto da provare, può avere affrontato dei discorsi un po' insidiosi con alcuni compagni nell'ultima gara di campionato, è ovvio che fa scattare la responsabilità oggettiva a questo titolo e con queste conseguenze gravissime. Per noi è veramente un assurdo. E si rischia di esporre le società a delle estorsioni. Non è il caso, o al limite dovrete provarlo, diciamo, della vicenda del Napoli, però parlando per pura ipotesi di scuola, c'è anche questo rischio. In astratto, ripeto, un dipendente infedele potrebbe anche accordarsi con club concorrenti o con organizzazioni malavitose che vogliono il danno e il male di quella società e porre in essere comportamenti finalizzati ad alterare qualunque risultato di qualunque gara a cui questa società partecipasse, al solo fine poi di determinare l'attivazione del procedimento disciplinare, con la conseguenza che tutti sappiamo, perché nel caso di illecito sportivo, nella configurazione anche della forma più attenuata di responsabilità, cioè quella per l'illecito tentato, la sanzione minima è la penalizzazione di punti. E quindi questo istituto, in maniera pressoché automatica, senza nessun vaglio, caso per caso, rischierebbe di determinare conseguenze devastanti sotto il profilo imprenditoriale, tecnico, sportivo ed economico, laddove anche è possibile che soggetti che operassero contro la società di appartenenza fossero sensibili a questo tipo di interventi esterni. Certo, quindi anche fuori da questo processo il Napoli si attiverà per cercare di riscrivere quella norma, questo mi pare di aver capito. è già in corso un confronto tra i massimi vertici della società, nella persona del presidente Aurelio De Laurentiis, gli organismi competenti, quindi Lega e Federazione. Iniziativa assolutamente non isolata, perché tantissimi altri club sono convinti di dover arrivare a questa conquista proprio per scardinare questo automatismo di comportamento illecito di un giocatore e applicazione dell'istituto della responsabilità oggettiva, bensì valutazione caso per caso in base ai ruoli, alle responsabilità e al coinvolgimento della società. Grazie avvocato Grassani. Grazie a voi. E dunque queste sono le vicende del Napoli, le avete sentite, lunedì inizia il processo per il calcio scommesse, che cosa ne pensate? 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure chiocciola Capuano Gio su Twitter, come Giuseppe che scrive: parte lesa, lo erano anche Atalanta, Bologna, Torino, Sampdoria e Siena e sono state tutte penalizzate. È vero, e difatti anche il Napoli rischia tantissimo, la ricostruzione della Gazzetta dello Sport è una ricostruzione credibile, perché in questo momento l'istituto della responsabilità oggettiva funziona esattamente come ha spiegato l'avvocato Grassani, e poi io credo a bocce ferme verrà in parte rivisto e in parte riscritto pur senza cancellarlo, però in questo momento queste sono le regole. 800 24 00 24 invece per le vostre telefonate in diretta. Parliamo anche del ritorno di Conte, che oggi è rimasto in silenzio alla vigilia di Palermo Juventus. La squalifica scade esattamente alla mezzanotte di oggi, ma dietro questo silenzio c'è anche un po' di rabbia e forse anche un po' di scaramanzia, perché è una moda che la Juventus ha inaugurato in questa stagione, sta portando bene. Ci sono numeri che dicono ad esempio che Conte, che Alessio e Carrera hanno fatto numeri alla mano anche meglio di Antonio Conte. Poi è evidente che dietro alle loro vittorie c'è stato soprattutto il lavoro in settimana del vero allenatore della Juventus. Beh, da domani Conte torna in panchina. 800 24 00 24 per le vostre telefonate. Ci fermiamo, pubblicità, meteo e poi torniamo. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Prima però la voce di Allegri. Abbiamo detto, domani è il giorno del ritorno di Antonio Conte in panchina. C'è chi, come presidente della Federazione Abete, gli ha fatto un in bocca al lupo per la sua nuova carriera da allenatore a tutti gli effetti della Juventus. Chi, come Stramaccioni, non si è pronunciato. E invece sentite le parole di Allegri. Gli faccio i migliori auguri per il ritorno in panchina. No, anche perché credo che abbia già sofferto abbastanza stare lontano dalla squadra per tanto tempo, quindi credo che questo ritorno in panchina sia un bene per lui e credo anche per la squadra. Ma io credo che gol ne faccia pochi, perché dalla panchina gli allenatori gol ne fanno pochi, però sicuramente potrà essere importante, visto che dalla tribuna le partite si vedono in un modo diverso, e credo che in questo momento sia giusto che ritorni in panchina. Un amico scrive al 349-238-6666: il ritorno di Conte sarà interessante per avere riscontro, per capire quanto è importante il mister in questa Juventus, un po' come è capitato con Villanova al Barcellona. Interessante anche perché il Barcellona di Villanova sta viaggiando più veloce dell'ultimo Barcellona di Guardiola, però questo è soltanto un riscontro numerico, mentre è una certezza che dietro le vittorie, dietro le panchine, dietro le scelte di Carrera prima e Alessio poi c'era Antonio Conte, e questo alla Juventus non l'ha mai nascosto nessuno. E poi un altro amico da Parma che dice: il ritorno di Conte è una vergogna, perché alla fine non c'è trasparenza e pulizia nel calcio. Conte doveva smettere di allenare e girare pagina. Ovvio che poi guardiamo all'estero con invidia. Non mi sento di essere d'accordo con questa posizione. Conte ha pagato il suo debito, 4 mesi possono essere tanti per una persona che si ritiene innocente, o pochissimi se davvero quell'accusa di omessa denuncia era un'accusa supportata dai fatti. Resta che è stato un procedimento che è iniziato con una richiesta ben più pesante e che è finito con 4 mesi, quindi questa sentenza va rispettata. Da domani, anzi da mezzanotte, Conte è pienamente riabilitato per tornare sulla panchina della Juventus. Sarà interessante capire quanto inciderà. Ci chiedevano poi di girare a Mazzone questa domanda, purtroppo non è più in collegamento, se farebbe giocare o meno Snyder. Sneijder e da che parte sta fra il giocatore e l'Inter, beh, noi vi possiamo dire che Sneijder non giocherà nemmeno domani contro il Napoli, perché Stramaccioni non l'ha convocato, non c'entra l'infortunio, ammesso che infortunio fosse quello che ieri l'ha tenuto lontano dagli allenamenti con il gruppo della prima squadra, però sentite Stramaccioni ancora un po' scocciato oggi sull'olandese. Per me conta quello che dice il giocatore quando è di faccia, in faccia di fronte a me, quindi tutto il resto non me ne frega niente. Ieri aveva solamente un lieve fastidio muscolare, d'accordo col dottore, come capita per tanti altri giocatori, si era deciso di fare una giornata di fisioterapia, ma sta benissimo, sta bene, oggi si è allenato come gli altri. Sta benissimo, però non è convocato, nell'Inter non c'è nemmeno Alvarez, torna Cassano, potrebbe esserci il tridente pesante, ma si vedrà, perché si gioca domani sera alle 20.45. La certezza è che nel Napoli c'è invece il recupero di Hamsik ed è un recupero importante. Buon pomeriggio anche ad Alberto Cerruti, editorialista della Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio Alberto. Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Sentiamo insieme Maurizio dalla provincia di Roma. Maurizio, buon pomeriggio. Pronto? Prego. Salve, buonasera. Volevo parlare dell'intervista di Zeman per quanto riguarda la Roma. Sì, su De Rossi, dica. Ecco, io quello che mi domando è che facendo l'esempio per esempio di un'altra squadra, tipo la Juventus, ma anche l'Inter, anche il Milan, non avrebbero, diciamo, permesso ad un suo allenatore tesserato di rilasciare un'intervista prima di una partita importante o anche in procinto di una partita di Coppa, insomma prima di Roma-Fiorentina. Cioè io avrei non permesso, perché Zeman ha sempre detto: se mi chiedono delle cose rispondo. Sì, c'è un po' di autolesionismo, sottoscrivo Maurizio. Alberto Cerruti, Gazzetta dello Sport, stiamo parlando di Zeman e De Rossi. C'è un po' di autolesionismo nel definire De Rossi non integrato nel progetto della Roma? Sì, mi sembra quasi che sia una provocazione di Zeman per indurre De Rossi a lasciare la squadra, perché francamente sono dichiarazioni dure e anche secondo me inopportune, perché De Rossi comunque è un grande giocatore. Credo che è sempre giusto parlare, io sono contro i silenzi stampa, però di certi argomenti è meglio non parlare pubblicamente. Sì, anche perché insomma non va dimenticato che De Rossi ha rinnovato, e ha rinnovato con un ingaggio assolutamente in linea con il suo valore non più tardi del mese di agosto. Ha fatto anche un gesto importante verso la Roma, perché avrebbe potuto liberarsi a parametro zero, dunque è evidente che c'è una scelta societaria nel fare di De Rossi un pezzo importante anche della storia futura di questo club. Io non so fino a che punto Zeman abbia diritto di destabilizzare questo equilibrio con le sue dichiarazioni. Ha il diritto di scegliere o meno dove collocare in campo De Rossi, ma penso che si debba fermare qui, questo almeno è quello che intendo. Sì, io credo che l'allenatore debba fare l'allenatore, e penso che di questo argomento si sia parlato quando De Rossi ha rinnovato. Credo che Zeman sia stato messo al corrente, quindi le parole di Zeman, oltre a ferire De Rossi, in un certo senso smentiscono la politica della società, e questo è un doppio problema, perché al problema tecnico della disponibilità del giocatore si aggiunge il problema dei rapporti tra l'allenatore e la propria società. Non c'è dubbio, rapporti che invece sono splendidi oggi, ma lo sono stati anche negli ultimi mesi, quelli di Antonio Conte con la Juventus. Domani torna, numeri alla mano, Alessio e Carrera hanno fatto meglio in percentuali di vittorie rispetto a Conte, però è evidente che dietro c'era sempre il suo lavoro, ma può essere davvero una qualcosa in più per la Juventus ritrovare Conte sulla panchina? Ma più di così francamente non so che cosa possa fare la Juventus, perché già è andata più forte rispetto all'anno scorso, ha due punti in più, si è qualificata al primo posto in Champions League, e credo che nemmeno i tifosi della Juventus lo potessero immaginare. Lo ha fatto capire Marotta indirettamente, dicendo: è stato un grande traguardo al quale non eravamo preparati. E quindi il ritorno di Conte è molto importante, però credo che il lavoro di Conte si veda durante la settimana, e i risultati abbiano smentito la tesi di quelli che sostengono, sostenevano che senza Conte in panchina la Juventus aveva sofferto. Sì, è mancato forse in alcune occasioni di Coppa, quando c'è stata un po' di lentezza nell'adeguarsi. Io penso a Copenaghen, dove la Juventus è passata al tridente soltanto negli ultimi 7 minuti. Penso forse a una certa difficoltà di reazione davanti alle difficoltà in casa contro lo Shakhtar. Forse da quel punto di vista Conte è mancato. Poi è vero che, che numeri alla mano, meglio di così la Juventus non poteva fare. Sì, ma io credo che appunto non si debba neanche esagerare, perché l'anno scorso la Juventus ha pareggiato molte partite, era accusata di pareggite, ha pareggiato in casa con il Bologna, con il Genoa, quindi c'era Conte in panchina, e questo vuol dire che ci sono delle partite in cui la squadra non può rendere al 100%, succederà anche con Conte, non pensiamo che adesso torni Conte e la Juve vinca tutte le partite, quindi io credo che si sia un po' esagerato da parte di tutti a sottolineare l'assenza di Conte, che ripeto è molto importante per la Juventus, ma è importante che lui possa lavorare durante la settimana, possa scegliere i giocatori, e poi parliamoci chiaro, Conte detta anche le sostituzioni durante le partite. Sì, questo non c'è dubbio, almeno soprattutto in Italia ne avevamo la certezza, certo, in Europa magari un po' meno. Guarda, secondo me l'assenza di Conte può pesare in certi intervalli, quando non è nello spogliatoio a parlare lui con i giocatori. Quello è il momento in cui può pesare l'assenza di un allenatore, non soltanto di Conte, di qualsiasi allenatore. Certo, intanto la Juventus sta volando a Palermo soltanto con 19 giocatori, è volata a Palermo soltanto con 19 giocatori, c'è una lunga serie di indisponibili a partire da Giovinco, ma l'ultimo che si è aggiunto insieme a Isla, Caceres, Lucio e anche Marrone. Ho l'impressione che forse per l'ultima settimana, e poi se ne riparla a marzo, però l'effetto della Champions peserà e non poco sui bianconeri. A novembre si è visto che le due partite che rappresentavano un punto di non ritorno contro il North Sealand e soprattutto quella con il Chelsea hanno provocato un rallentamento in campionato. Domani io credo che per la Juventus sia da questo punto di vista un test importante. Molto importante, proprio perché l'effetto Champions si fa sentire più dopo le partite che non prima. In questo caso la Juventus ha giocato mercoledì, quindi un giorno in meno se avesse giocato il martedì per recuperare, una partita oltretutto in trasferta, una lunga trasferta con un ritorno notturno, una partita che dal punto di vista psicofisico ha impegnato molto la squadra, e quindi domani è una prova molto impegnativa a prescindere dal valore dell'avversario, che comunque in casa cercherà di dare tutto. Sì, io credo soprattutto dal punto di vista psicologico, quella con lo Shakhtar è stata una partita difficile, perché c'era la consapevolezza per la Juventus, a partire dal presidente Agnelli, penso ad arrivare fino al magazziniere, che ci si giocava una fetta importante di stagione, vuoi per motivi di bilancio, vuoi anche per motivi tecnici, perché penso che il passaggio del turno in Coppa fosse l'obiettivo minimo europeo che la Juventus si fosse data in questa stagione di ritorno in Champions. Sì, hai detto tutto tu, è stata una partita che ha segnato una svolta a livello psicologico, a livello tecnico, perché in Europa la Juventus adesso è una squadra che fa paura, perché ha vinto il suo girone, ha subito soltanto 4 gol, la seconda difesa delle 16 squadre, e quindi questa partita ha consumato molte energie alla Juventus, e ecco perché domani, a prescindere dal valore del Palermo, la Juventus potrebbe pagare proprio a livello di testa, perché subentra un inconscio, un naturale rilassamento dopo una grande impresa. Non c'è dubbio. Alberto, ti chiedo un minuto di pazienza, abbiamo le informazioni sul traffico, poi chiudiamo con Inter-Napoli, che può essere anche una partita a scudetto, cerchiamo di capire se è vero. A tempo di sport. Sono finite le belle giornate per la squadra, perché Sant'Antonio tornando in panchina non vorrei averlo molto vicino, però questo ovviamente scherzando, però ci sarà un valore aggiunto per la nostra squadra, perché è stato, diciamo, squalificato un fuoriclasse, che è stato per noi e sempre per noi Antonio Conte, perciò avendolo in panchina sarà molto più dura per tutti gli altri a fermarci. Vero fuoriclasse della Juventus, questo era Pavel Nedved che parlava del rientro di Antonio Conte. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Alberto Cerruti, non sarà certamente un valore aggiunto per l'Inter invece Sneijder, ancora non convocato in vista di Inter-Napoli, anche se si è capito, ma del resto lo si era abbastanza intuito già nella giornata di ieri, che l'affaticamento muscolare era qualcosa più o meno legato anche questo all'avvertenza sul contratto, piuttosto che un vero infortunio. Diciamo la parola vera, una balla. Ecco, una balla. Una scusa per coprire una situazione francamente imbarazzante. A questo punto tutti hanno capito che Sneijder è ormai un ex dell'Inter e quindi l'Inter andrà avanti senza di lui. Credo che non lo rimpiangerà, non rimpiangerà soprattutto l'ultimo Sneijder, che non è stato quello dell'anno del famoso triplete. Indubbiamente è una vicenda gestita male e a questo punto Sneijder cercherà un'altra sistemazione. Sì, io credo però una vicenda in cui l'Inter si deve anche interrogare, perché ad esempio per domani non è convocato Alvarez, che non sta bene, ma non sta bene veramente, torna Cassano, ma è tutto da decidere se Stramaccioni giocherà con il tridente pesante. Io credo che nell'ultimo mese ad esempio Sneijder avrebbe portato qualche punticino in più alla causa di Stramaccioni, e farne a meno così, e tra l'altro mettendosi nei guai anche per le dichiarazioni di Branca, non mi è sembrato dal punto di vista societario dell'Inter un atteggiamento pienamente consapevole e che porti poi a qualche risultato. Sì, io definirei questa vicenda una vicenda doppiamente presuntuosa, cioè c'è stata la presunzione della società di pensare di risolvere in fretta un caso molto complicato e anche la presunzione tecnica di pensare di poter fare a meno di Sneijder, che come dicevi tu prima, in questa situazione di quasi emergenza potrebbe o avrebbe fatto ancora molto comodo all'Inter, perché lui era pronto per rientrare, e quindi rinunciare a un giocatore come lui, che ripeto non è quello di 2 anni fa, però sicuramente è meglio di Alvarez, rinunciare a un giocatore come lui in un momento in cui la squadra è in difficoltà è una dimostrazione da un lato di presunzione e dall'altro è un mezzo suicidio. Quindi è un caso che creerà polemiche, soprattutto se l'Inter non dovesse battere il Napoli. Ah, non c'è dubbio. È una partita da scudetto più per l'Inter o più per il Napoli? Io voto più per il Napoli, che è davanti a un esame davvero importante. Sì, io dico che più per il Napoli per 2 motivi. Primo, perché è davanti all'Inter in classifica, e secondo perché il Napoli quest'anno ha già sprecato la grande occasione a Torino contro la Juventus, perdendo anche se soltanto nell'ultima mezz'ora. Se il Napoli domani uscisse imbattuto da San Siro, ma a maggior motivo se uscisse con una vittoria da San Siro, dimostrerebbe davvero di essere una squadra da scudetto. L'Inter è già oltre le previsioni, perché diciamo la verità, nessuno pensava che potesse essere al terzo posto, è stato al secondo posto, e quindi questo è un esame vero per la squadra di Mazzarri, che secondo me ha le condizioni per superare questo esame. Prima di chiudere ti faccio sentire Berlusconi oggi su Balotelli, che era sulle prime pagine della Gazzetta e non solo. Il grande intrigo, Balotelli vicino al Milan, questa quotazione da 40 milioni di euro che il Manchester City avrebbe recapitato nelle scorse ore ad Adriano Galliani. Beh, oggi Berlusconi è stato per la 5ª volta milanello nelle vesti di presidente motivatore, e allora sentite che cosa ha detto di questa trattativa. È stata interpretata male una mia frase, perché io avevo detto non sogno queste cose di notte, e invece è stata interpretata che io di notte sognassi Balotelli. No, speriamo di comprare direttamente. No. Non c'è nessuna trattativa in corso, no, assolutamente. Poi è troppo caro, costa come la Gioconda, ha detto il suo procuratore. Scherzo. Non si possono più fare, detto dall'uomo che aveva annunciato le primarie del PDL e poi aveva detto che non si candidava. Insomma, ci crediamo o no, Alberto? Perché sappiamo che poi c'è un legame stretto spesso fra l'attività sportivo-calcistica di Berlusconi, i suoi interessi in politica, la necessità di visibilità. Ma io questa volta, e sottolineo questa volta, ci credo. Può darsi che Balotelli arrivi al Milan, ma sicuramente non a gennaio. Devo dire che quella frase "non sogno Balotelli", Berlusconi l'aveva detta anche l'estate scorsa quando si parlava di un ritorno di Kakà al Milan. Ecco, forse pochi se lo sono ricordato. Lui disse: è vero. Sogno Kakà, nel senso che voleva dire di notte faccio altri sogni. Ecco, sì, senza voler essere maliziosi, dai. Certamente, e quindi quando lui ha detto "non sogno Balotelli", forse per la voglia mediatica, diciamo così, di immaginare una grande trattativa, è stata un po' tratta una conclusione affrettata. Per questo io non credo che Balotelli e il Milan lo può permettere dal punto di vista economico. Dal mio punto di vista non servirebbe nemmeno adesso Balotelli, servirebbe un buon difensore, un buon centrocampista. E quindi credo che adesso davvero Berlusconi abbia detto la verità oggi. Può darsi che poi all'estate prossima cambino le situazioni e Balotelli arrivi veramente al Milan. Cambino situazioni penso. E sogni del presidente. Grazie ad Alberto Cerruti. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie ad Alberto Cerruti della Gazzetta dello Sport. C'è Gianluca da Napoli che ha chiamato all'800 24 00 24. Gianluca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Prego. Mi ascoltavo poc'anzi in merito al Napoli, che rischierebbe dei punti di penetrazione. Volevo sapere quanti punti massimo potrebbe prendere, il ricorso entro quanti termini rappresentati, e poi se è possibile sapere la campagna di acquisti del Napoli, magari a gennaio con qualche rinforzo, anche se credo che De Laurentiis non cacci manco la lira. Ma io invece credo che De Laurentiis possa anche essere interessato a cacciare la lira, soprattutto se il Napoli in queste ultime tre partite prima della pausa natalizia dovesse restare agganciato alla Juventus. Beh, i termini del processo ne abbiamo parlato prima con l'avvocato Grassani. Il Napoli rischia, perché la responsabilità oggettiva oggi è costruita così, e quindi se dovesse scegliere la via del patteggiamento, come ha già fatto Gianello, se la caverebbe con un punto ma non potrebbe andare oltre, e soprattutto inguaierebbe anche Cannavaro e Grava. Io credo che soprattutto la posizione di Cannavaro sia una posizione delicata per il Napoli. Andando avanti rischia al massimo due punti, e poi sarà una cosa che si deciderà al TNAS, magari verso il finale di questa stagione. Vedremo. In realtà il patteggiamento, ha detto l'avvocato Grassani prima, non è un'ipotesi che il Napoli prende in considerazione. Ci fermiamo qui. Io ringrazio Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi in regia. Domani 16:30 per A Tempo di Sport, per raccontare la giornata della Serie A. Un saluto anche da Giovanni Capuano.